RadioTube Social Network. Una intensissima prima ora, quella di RadioTube Social Village, quella che abbiamo passato insieme. Fabio Concato, fresco vincitore dell'Ambrogino d'Oro, benemerenza molto importante a Milano e in questi giorni di Sant'Ambrogio, con comunque un'apertura della scala della quale parleremo poi nei giornali radio e nelle trasmissioni serali di Radio 24 lunedì sera, perché è importante stare vicino al teatro, alla scala, anche se quest'anno la prima tradizionale non si può fare. E poi abbiamo incontrato Ligabue e Claudio Baglioni. Devo ringraziare Anna che ha mandato un messaggio molto carino sulle interviste a Baglioni e Ligabue, personaggi straordinari. Avremmo dovuto dedicare un'ora a ognuno di loro, veramente personaggi straordinari. E poi è arrivato un messaggio fortissimi: anch'io sono una fan di Off Topic, perché sono stati con noi i colleghi di Off Topic che hanno lanciato il loro nuovo podcast che si intitola Sul Filo. Andatelo a sentire, perché veramente vale la pena in questo mare di podcast segnalare quelli che davvero vale la pena ascoltare. Adesso siamo pronti per la seconda ora del nostro RadioTube, il RadioTube Social Network, una settimana di attualità della rete e dalla rete, tanti argomenti dei quali parleremo con il nostro co-conduttore, come sempre purtroppo ultimamente a distanza, ma torneremo a ospitare i co-conduttori in studio. Tornato con noi, sociologo della comunicazione, professore di storytelling d'impresa all'Università degli Studi di Pavia, Andrea Fontana. Buonasera professore! Buonasera Marta. Buonasera. Beh, senti, la tecnologia mi sembra di averti qui vicino, professore. Anche a me, dai. Dai, siamo accontentiamoci. Ma ci siamo. Allora, tanti argomenti e poi vorrei parlare con te di un argomento che mi sta molto a cuore, perché in questi giorni ho avuto anche tanti scontri sui social network. Dovevamo diventare tutti migliori, forse siamo diventati tutti peggiori, chi lo sa. Ne parliamo tra poco, ma prima vorrei un po' chiederti qualcosa dei video della settimana, non solo della settimana. Vorrei partire da una conferenza stampa, come insomma si stanno ripetendo in questo periodo. Roberta, vai pure. In coerenza con quanto prevede il piano a cui ho fatto riferimento, il prossimo DPCM individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. Allora, questa era la conferenza stampa del 2 novembre del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era la prima volta che parlava di queste zone. Andrea, tu che ti occupi di comunicazione, di narrazione, storytelling, insomma, non so, adesso ogni tanto si trova una definizione nuova, com'è stata secondo te questo modo di raccontare l'Italia divisa in fasce con queste conferenze stampa dopo la prima fase del lockdown? Ecco, mi dai una tua considerazione generale su come è stata gestita questa comunicazione? Ma guarda Marta, sai che sono anch'io un po' critico su come si sta gestendo la comunicazione in Italia in questo momento, non tanto relativamente al governo, ma in senso lato, perché mi sembra di vedere una grandissima infodemia e soprattutto un'informazione molto contraddittoria. Quindi riscontro molta contraddizione, che vuol dire che il soggetto A dice una cosa che poi il soggetto B nega. Pensiamo a tutto il tema della virologia, di come viene raccontata oggi la scienza e anche la malattia, e devo dire che al di là di una necessaria divisione in zone, perché come azione politica mi è sembrata sensata quella di dividere in zone più o meno da poter gestire, no? con più o meno efficacia, però come al solito non è stata molto efficace la comunicazione, che è stata ancora molto contraddittorio, no? Perché anche in questi giorni io stesso, per muovermi da un comune all'altro, cerco di capire se ho capito bene quello che mi è stato detto e raccontato dalle istituzioni del nostro paese. Hai utilizzato un termine molto interessante, ci dai una definizione, ci racconti un po' cos'è questa infodemia? L'infodemia è una condizione contemporanea che va oltre anche il Covid-19. Era già iniziata prima del Covid-19, cioè il fatto che ormai viviamo in ambienti tecnologici e sociali dove tutti possono raccontare un po' di tutto ed essere creduti. dove le credenze personali la fanno da padrone, ancora prima della conoscenza oggettiva. E quindi in questo clima e in questa dimensione si diffondono qualsiasi tipo di notizie, al di là dell'oggettività. L'infodemia è qualcosa di ancora più complesso e, se vogliamo, anche pericoloso, perché non ha più a che fare con la conoscenza oggettiva, con le informazioni vere o false, ma con informazioni non verificabili su eventi inspiegabili, che tradotto vuol dire accade qualcosa come una pandemia che è inspiegabile da un punto di vista scientifico, o meglio, ci possono essere molte spiegazioni contemporaneamente e quindi siamo sottoposti a più spiegazioni della realtà e dello stesso evento contemporaneamente in modo contraddittorio. E questo da gestire sia a livello individuale che sociale, che organizzativo, che istituzionale, è molto complesso. Professore, sorridiamo anche un po' di questo problema, non per banalizzarlo, ma perché si può prendere con ironia tutto, e in questo periodo è molto bravo, ne parlavamo poco fa con Alessandro Schirano, Maurizio Crozza, secondo noi in questo periodo sta veramente dando il meglio, in questa imitazione del governatore Zaia, cioè dell'ironia ma in maniera molto molto simpatica, insomma, niente di volgare, niente di aggressivo, eccolo qua. Conte mi ha mandato un nuovo DPCM, certo. L'ho lesuto perché era al telefono, sì, con Rigoli. Ah, è famoso dottor Rigoli. Ma sì. Telefonata a Rigoli. Sì, che lui lavora de notte anche a mia. Sì, certo, certo. Sta lavorando su certi tamponi che sì. Quando infine il naso suona Jingle Bells. Allora, il governo dice che no, a Natale non si può spostare tra regioni. Non solo, cioè. Tra cammini? Ma no, che cammini? Comare. Ma no. Ma comuni. Che... comuni. Gerindo. Il presepe vivente lo puoi rimandare? Ma perché? Sta facendo presepe vivente? Vi dico solo che ci sono comuni e comuni. Ecco, questa cosa non è giusta. Roma sono metropoli grandi da noi, sì. Questa è una regione fondata sull'umanità. Ah, c'è un rapporto. E secondo Conte Ferruccio, che ha sua nonna che abita proprio qui a Col Cagotto, non può andare a trovarla a Natale. Lo so, è dura. No, dai. Lo so. È sua nonna Lisa Poaretta, certo. Che la conosciamo tutti, no? Sì, sì. No, no, Renata, no. È qui a Cascogliosi, no? È qui a piegata in due, che la chiamiamo Startac, no? Allora, devo dire, questa parodia da Fratelli di Crozza dice un po' quello che dicevi tu, professore. Insomma, è difficile capire queste indicazioni, la comunicazione è molto difficoltosa e questo insomma lo fa capire in maniera abbastanza sorridente. Devo dire che io stessa ho scritto su Twitter questa cosa dei comuni, che mi sembrava banale, che insomma ci sono comuni molto piccoli e comuni molto grandi, quindi la legge non è uguale per tutti. Sono stata sommersa da qualsiasi cosa, vabbè, basta, non lo dirò più. Sì. Professore, sai quello che, allora, è importantissimo sdrammatizzare e ironizzare in questo momento, perché ci fa bene sorridere. Quello che a me ha molto colpito in senso lato della comunicazione degli ultimi periodi è che è molto paternalistica e molto, se vuoi, colpevolizzante, se hai notato, no? Assolutamente, perché ci viene detto di fare qualcosa, altrimenti produrremo dei danni enormi. Questo in termini di retorica classica, quindi recupero vecchie conoscenze di chi si occupa di comunicazione e torno ad Aristotele nel IV secolo avanti Cristo, addirittura si parlava di argumentum ad misericordiam, che è una vecchia tecnica retorica per colpevolizzare il nostro interlocutore e costringerlo a fare qualcosa. Quindi praticamente come se io ti dicessi che tu puoi o non puoi fare qualcosa, perché se lo fai o non lo fai poi vanifichi i miei sforzi e produci dei danni, che possono essere la povertà, può essere una malattia, può essere qualsiasi cosa il danno che tu vai a creare. E questo è una vecchia tecnica per persuadere a comportamenti in vista di una pena o anche di una indulgenza. Ecco, e quindi di fronte a questo io divento un po' critico in senso lato, perché secondo me la comunicazione migliore non è quella colpevolizzante, ma è quella dialogante, no? E quindi io cerco di spiegarti come stanno le cose, se dobbiamo fare dei lockdown li facciamo, per carità, però cerco di essere meno paternalistico negli approcci alla comunicazione. Professore, sono molto d'accordo con te. Hai sollevato dei temi interessanti che, di cui vorrei parlare dopo la pausa. Oggi, per lanciare le viabilità e le pause, Alessandro Schirano ha preso dalle tendenze di YouTube un video degli autogol Lockdown 2020 versus 1990. Eccolo qua. Oggi le videochiamate. Ragazzi, ora dell'aperitivo. Da quant'è che siamo connessi? Ma mi sa anche più di un'ora, eh. Anni 90. Guarda, mi fa sempre un sacco piacere sentirti, però sono già 7 minuti che siamo al telefono. 7 minuti? No, metti giù che sto spendendo troppo, però ho speso almeno 10.000 lire. No, devo chiamare anche Marta, come faccio? Sto finendo il credito. Vabbè, falle uno squillo. Ah, ciao, gli squilli. Radio Tube Social Network. La valigia sul letto, preparata da maggio, aspettando che cali le reti del contagio. Al Black Friday t'ho affittato lo chalet a una stella. Voglio andare in montagna, ma va bene anche Biella. Il weekend a Cortina è un diritto assodato. Luca e Paolo con la loro versione di Se mi lasci non vale, ovviamente parlano di quelli che pensano allo sci. Allora, il messaggio al 349-238-6666. Ah, bello questo. Cara Marta, ti manderò un bellissimo regalo il giorno in cui riuscirai a contraddire il tuo interlocutore e a non fare la paracula. Allora, ti posso dire la verità? Secondo me il giornalismo non è contraddire gli interlocutori. Hai presente quelli che devono sempre fare la domanda cattiva e dire no, non è vero? Io non posso farci niente. Generalmente quando scelgo un esperto di cui mi fido e quindi è molto facile che sia d'accordo con lui perché mi fido. Tutto qua. Può essere anche magari in contraddizione con me oppure in contraddizione, in contrasto con qualcuna delle mie idee, ma generalmente è difficile che io scelga un ospite che non stimo e di cui non stimo le idee, e quindi è molto più facile che io sia d'accordo con lui. Tutto qua. E mi sembra un meccanismo anche questo abbastanza umano. Ma di chi stiamo parlando? Del nostro co-conduttore di oggi, professor Andrea Fontana. Bentornato, professore. Io poi lo chiamo professore, ma gli do del tu, ma va bene così. Ma allora, voglio invece farti leggerti un altro messaggio che è arrivato al 349-238-6666, perché è un altro messaggio molto interessante. I primi a fare disinformazione sono proprio le testate giornalistiche che hanno un'agenda da divulgare e non fanno informazione. Allora, poi, peraltro, singolare che arrivi un messaggio del genere a Radio 24, che è una radio non di musica ma di informazione, quindi evidentemente è una persona comunque interessata all'informazione. Ancora di più abbiamo questa impressione che ci sia un'agenda eterodiretta che governa l'informazione, cioè questa pandemia ci ha reso ancora più diffidenti? Ma questo senza dubbio, anche perché questo processo era già in corso da molto tempo. Citiamo per esempio una bellissima ricerca che viene fatta periodicamente, che si chiama Edelman Trust Barometer, che tradotto vuol dire il barometro della fiducia, fatto da Edelman ogni anno. E già da molti anni Edelman, che una grande società di ricerca, ha denunciato come la fiducia nel mondo verso le istituzioni, verso i media, verso le organizzazioni è in grande crisi o addirittura in grande decrescita. Per cui viviamo in un ambiente sfiduciato a livello comunicativo. Proprio per questo ognuno di noi nella comunicazione che fa nella propria vita quotidiana, perché ricordiamoci anche che è vero che ci sono i media grandi o piccoli, ma che tutti noi oggi abbiamo un potere mediatico attraverso i social e non solo, e quindi l'appello che potremmo fare è un ritorno al dialogo quanto mai importante in un momento in cui appunto tutti raccontano tutti, il contraddittorio è molto aggressivo e polarizzato, perché se ci va di tendiamo al conflitto, non all'ascolto reciproco. e quindi forse dovremmo tornare al vecchio e chiaro ascolto e dialogo per capire meglio la realtà che ci circonda. Poi è chiaro anche, questo possiamo dirlo tranquillamente, che intorno al Covid ci sono grandissimi interessi geopolitici. Qui apriamo dialoghi e discussioni che potrebbero durare tantissimo. Dietro o davanti al Covid ci sono interessi economici, ci sono interessi di varia natura, insomma, e quindi non possiamo essere così ingenui da non pensare che dietro una geopandemia esistano anche tutta una serie di gruppi che si stanno muovendo e che stanno cercando di ottenere interessi vantaggiosi in senso lato. Questo sicuramente, però questa cosa però rischia poi, è una strada che rischia di portarci verso un'idea di complottismo, di organizzazioni complesse sempre alle nostre spalle. Diego da Roma: approvo il messaggio sull'agenda dei mass media, Covid, vaccini, MES, Biden, eccetera. Sì, però è anche un po' difficile non pensare che possano essere le notizie in prima pagina in questo momento, per semplificare un po' il concetto di agenda. Ma senza dubbio, guarda, però torniamo al discorso che facevamo prima, ovviamente secondo me, e cioè ormai tutti noi siamo polarizzati rispetto a credenze che abbiamo. Questo è un dato con cui dobbiamo fare pace in senso lato, e cioè io credo in certe cose, tu credi in altre, automaticamente e anche a seconda dei nostri percorsi di conoscenza che attiviamo quando apriamo uno smartphone o un PC e andiamo a trovarci automaticamente le informazioni e le credenze in cui già crediamo. Per cui chi crede nel complotto non è che non potrà continuamente credere o rinforzare questa sua credenza, così come chi crede nel fatto che quello che sta avvenendo è una cosa, è un incidente naturale, casuale, senza nessuna conseguenza, non farà altro che aumentare ancora di più la credenza in questo tipo di informazione. Quindi non usciamo da questa dinamica oggi come oggi. Il problema è non cadere nel conflitto e cercare di instaurare ponti di comprensione tra queste due situazioni di credenza estrema, naturalmente, perché poi in mezzo c'è tutto un mondo di sotto posizionamenti. E perché dico questo? Proprio perché la polarizzazione non fa bene a nessuno. Certo. Non fa bene, no, a chi crede che dietro agli eventi ci sia sempre un grande vecchio e a chi crede che invece gli eventi capitino per caso e vanno un po' così casualmente gestiti. Ecco, ricominciare ad ascoltare le posizioni di tutti, secondo me, è una grande operazione di civiltà oggi, anche perché, sempre tornando alle vecchie regole della retorica, c'è un'altra fallacia logica che viene adoperata oggigiorno, che si chiama reductio ad ridiculum, e cioè il fatto che se io ti ascolto e ascolto una tua tesi, automaticamente tento di metterti in ridicolo, di ostracizzare la tua tesi e di criminalizzarti, perché automaticamente penso che tu stia dicendo una falsità. Ecco, questo non ci fa bene al dialogo e non fa bene neanche alla comprensione della realtà. Luigi da Lucca mi scrive una cosa carina, ringrazio Luigi. L'intelligenza emotiva ed empatica credo siano fondamentali. Io ho davvero tanto bisogno di empatia. Mi rendo conto che non so se è passata di moda, ma ce ne sarebbe davvero un enorme bisogno, professore. C'è un modo per allenarla, per convincerci a usarla? Ma guarda, quello che già ci sta comunicando questo ascoltatore mi sembra molto bello, ricordarci che possiamo, che abbiamo questa meravigliosa capacità umana di entrare in sintonia emotiva gli uni con gli altri, e ricordarcelo mi sembra già molto bello. Ecco, è un esercizio che ognuno di noi deve fare, cercando di, uso un brutto termine, depolarizzarci, cioè ricordandoci che oggi automaticamente siamo tutti più estremisti nelle nostre tesi, e quindi ascoltare di più ed entrare più in empatia può essere un modo, ed è anzi sicuramente un modo per abbassare il conflitto e abbassare anche, se vuoi, non solo i toni della discussione, ma anche i comportamenti, perché poi dopo più siamo polarizzati, più abbiamo comportamenti estremi. E invece quello che oggi, di cui abbiamo estremamente bisogno, è proprio cercare di abbassare i toni di questo conflitto e capire di più e meglio la realtà che ci circonda, perché ci aspettano grandissimi cambiamenti, e questa è la cosa straordinaria, dobbiamo dirlo. Cioè, quello che sta avvenendo, che sta accelerando la storia dell'umanità in un modo pazzesco, sta impattando ed impatterà tutti gli ambiti: il lavoro, il denaro, i sistemi di potere, i sistemi tecnologici. E un pubblico o una comunità polarizzata non capisce più niente. Non capisce più niente di quello che avviene nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, nel mondo dell'uso del denaro. E invece abbiamo bisogno di capire e di sentire. Ecco, quindi l'empatia ci aiuta sicuramente in questo, ma prima di tutto razionalizzare e capire, perché non abbiamo soltanto un cuore che si sintonizza, abbiamo anche una mente che deve mettere in fila i pezzi del reale, che in questo momento sono molto confusi. Però abbiamo delle prospettive, insomma, future, ecco, fortunatamente. Prospettive future, cominciamo a lavorarci. Empatia ai tempi di rapporti in webcam come oggi, lavorando da remoto sia con colleghi che clienti e non ultimi gli amici, scrive Marta. In effetti è più difficile, professore. Siamo lontani e quindi forse, sentendoci lontani, sentiamo più lontano anche il bisogno, l'umanità dell'altro? Beh, questa lontananza ci sta, a proposito di allenamenti, sicuramente allenando a una maggiore capacità di sentire l'altro, a una maggiore umanità. Non per questo ci rende migliori, chiaramente, però ci sta facendo vedere come la dimensione dell'accordo, dell'ascolto, torniamo all'ascolto, e del rispetto diventano fondamentali per costruire una realtà e una relazione significativa. E mi riallaggio proprio al fatto di quando siamo in smart working, durante, non so, una delle nostre mille, no, video chiamate, eccetera, abbiamo la manina, l'icona della manina che possiamo cliccare per far vedere che vogliamo alzare la mano simbolicamente, che certo, abbiamo qualcosa da dire. Siamo sempre lì a dirci: mi ascolti, mi senti, mi hai sentito, mi sentite? Ecco, anche questo secondo me è molto significativo di quello che sta avvenendo, perché più noi diciamo mi ascolti, mi senti, mi sentite, più stiamo manifestando la necessità dell'ascolto, sia mentale sia emotivo, di cui abbiamo estremamente bisogno. E se vogliamo, io stesso mi sto allenando molto in questo periodo, visto che anch'io ovviamente sono in smart working e subisco queste dinamiche come tutti, e mi sto accorgendo su di me di quanto è importante questo atteggiamento, che io stesso a volte nella realtà pre-Covid non avevo, no? In una vita di velocità, di risultati, di obiettivi da raggiungere, a volte ti perdi questa dimensione. Ho un'altra domanda da farti, professore, sul siamo diventati migliori, siamo diventati peggiori, ma prima abbiamo una breve pausa, quindi ancora un pezzettino degli autogol e poi saremo ancora insieme. Oggi ordini online. Ho bisogno di una pentola nuova, l'ordino online. Quando arriva? Oggi? Oh, arrivata. Anni 90. Oh, arrivo, eccoci qua. Ciao De Roberto, guardate, mi ha portato un grande regalo, una sorpresa. Sì, pronto, chiamo per le pentole. Ah, sono tra le prime 50 telefonate, quindi ho diritto alla bicicletta con cambio Shimano. Sì, scusi, tra quanto arrivano le pentole? Sono tra un mese! Radio Tube Social Network. Un capodanno, non si può più fare come prima. Ho comprato la gazzosa che costa poco e almeno fa la schiuma. Oh, la notte di Natale non si può fare festa. L'unico spostamento è per fare la pipì e pensi allo sci. Allora, questa è Mannaggia gli sci, canta Zucchero Fornabari. In realtà è Giovanni Vernia, bravissimo Giovanni. Stiamo parlando ovviamente di comunicazione in questi momenti difficili, con il nostro conduttore d'eccezione che è professore di storytelling d'impresa all'Università degli Studi di Pavia, sociologo della comunicazione e anche presidente di Story Factory, Andrea Fontana. Eccoci ancora, professore. Buon pomeriggio, Marta. Allora, ovviamente cerco anche di sorridere di questa cosa, però vorrei farti una domanda che è un po' complessa, ma eccola qui. Allora, ormai c'è questa cosa per cui si allentano degli obblighi, di fatto si passa da zona rossa, arancione, gialla, è possibile spostarsi all'interno del comune, però nel caso in cui una persona scriva qualcosa in merito, c'è qualcuno che dice: ah, ci sono i morti e tu pensi a questo. Ormai non c'è più la capacità di capire le intenzioni con cui una persona ha scritto una qualsiasi cosa. Ormai noi siamo talmente all'interno di una struttura mentale per cui pensiamo che la gente sia tutta stupida e cattiva e voglia andare a sciare facendo un torto alle persone che hanno perso la vita, mentre magari c'è qualcuno che vorrebbe semplicemente non andare a sciare con 25.000 persone, ma magari rivedere una persona cara da distanza a Natale, per non sentirsi soli, anche un periodo in cui la solitudine sta creando veramente dei problemi molto grossi. Mancanza di empatia e anche mancanza di voglia di capire quello che hanno scritto gli altri. Io sui social network questo lo sto riscontrando molto. Professore, cosa ne pensi? Ma sono abbastanza d'accordo con te, perché lo sto vedendo anch'io, ma lo considero abbastanza normale proprio per il ragionamento che facevamo prima. Tanto più se pensiamo che nel momento stesso in cui andiamo alla ricerca delle informazioni che un po' ci guidano nella nostra realtà, proprio per il discorso delle bolle cognitive, proprio per il discorso di come gli algoritmi ci guidano nella ricerca sempre delle informazioni in cui crediamo e in cui vogliamo riscontrare certi tipi di significati per noi, continuamente rinforziamo le nostre tesi di partenza. Per questo l'appello all'ascolto e all'empatia che facevamo prima credo che sia una cosa molto importante. Se non incominciamo a recuperare un pochino di quell'atteggiamento del Novecento, dove quando si diceva che le tesi degli altri, per quanto bizzarre, devono essere ascoltate prima di essere smontate, saremo sempre in un conflitto che non ci aiuta a capire la realtà complessa e complicata dentro la quale siamo. Non vuol dire avallare tesi assurde, però non possiamo neanche scendere continuamente in questo conflitto che sottolineavi tu prima. Eh sì. Hai citato il Novecento. Dai, facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo pronti? Allacciamo le cinture di sicurezza e parliamo di un argomento che mi diverte moltissimo. Dai, un salto indietro al Novecento. Eccoci qua. Buonasera. Va ora in onda per la prima volta in TV Passaggio in India di David Lean, tratto dal romanzo di Edward Foster. Due premi Oscar 1984 per un film di grandi attori. Buona visione. Per Serata Natura trasmettiamo Amazzonia ieri e oggi con il documentario Il giaguaro della giungla. Per TV2 Ragazzi potrete assistere a colori ad un breve programma di disegni animati della serie Barba Papà. In diretta dallo Studio 5 di Roma trasmettiamo Pronto Raffaella? Dal Quirinale trasmettiamo il messaggio augurale di fine anno agli italiani del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Sul sorriso delle annunciatrici mi pare che sia stato detto un pochino troppo e spesso non a proposito. È stato detto che sorridono un po' troppo. Cosa volete? Siamo contente. Io le ho riconosciute tutte, credo, tranne una. Poi chiederò tutti i nomi ad Alessandro Schirano perché le voglio controllare. Credo di averle riconosciute tutte tranne una. Le signorine buonasera. Io mi diverto tantissimo a cercare, come lo sapete, lo dico spesso, i frammenti dell'archeologia della TV su YouTube. E sono iscritta ad alcuni canali che ogni tanto tirano fuori questi annunci delle signorine buonasera. Qualche settimana fa, proprio durante una puntata di Radio Tube, un ascoltatore mi ha segnalato l'esistenza di questo libro e io ho detto, vabbè, ma scusate, ne parliamo sicuramente. Le signorine buonasera, il racconto di un mito tutto italiano dagli anni 50 a oggi, edito da Gribaudo. Benvenuto a Michele Vanossi. Buonasera Michele. Buonasera Marta. Allora Michele, buonasera a tutti. Michele, come ti è venuta l'idea di dedicare un libro alle signorine buonasera? Allora, io sono sempre stato appassionato di televisione e fin da bambina, da bambino guardavo ammagliato le signorine buonasera perché apparivano per qualche minuto sullo schermo, poi lasciavano spazio ai programmi per poi riapparire. Mi sembrava un po' qualcosa di magico. E poi invece da adolescente le vedevo con occhi diversi, facevo un zapping tra i canali privati e pubblici per vedere se c'era qualcuna delle mie preferite. Mi ricordo che ad esempio mi piaceva molto Cinzia Lenzi, che era una ex Miss Italia e così aveva questo sguardo, questi occhi verdi bellissimi. Poi sempre da ragazzino mi ricordo che ritagliai delle foto da un servizio fotografico, mi sembra su Sorrisi e Canzoni, però non ricordo bene, e che misi poi in una cartellina che aprì anni e anni dopo. Quindi probabilmente questa passione c'era già fin dall'infanzia. Poi invece l'idea di scrivere il libro risale a 4 anni fa, quando la RAI decise così di cancellare questo ruolo dei palinsesti e quindi mettendo un pochino, cioè, tralasciando il ruolo appunto delle signorine buonasera. Quindi ho effettuato un paio di ricerche per capire se ci fossero eventuali libri proprio dedicati a queste donne straordinarie, ma non avendo poi trovato nulla che mi soddisfacesse, decisi così di mettere nero su bianco intervistandole. Però vi dico la verità, non avevo ancora alcun contratto con nessuna casa editrice. Ah, proprio hai cominciato, con entusiasmo. Bravo. Con entusiasmo perché ci credevo. E quindi ho iniziato a scrivere questo libro che comunque... per svelare un po' di retroscena, un po' di curiosità su queste donne che hanno sempre un po' affascinato non solo me, ma credo molti telespettatori. Allora, professor Fontana, io trovo molto rilassante, ti dico la verità, andarmi a vedere un po' di televisione di un tempo in rete. Credo che, insomma, non serva una laurea in psicologia o essere specializzati e specialisti in sociologia come sei tu per capire che, insomma, qualcosa di molto rassicurante, dai, diciamolo. Beh sì, dai, è bellissimo non solo andare a vedere le cose del passato, ma fare un po' di scoperte in giro, no? Fa parte un po' delle nostre passioni anche, scoprire cose nuove, non solo del passato. Ma vorrei chiedere a Michele una cosa, posso, Marta? Certo. Volevo chiedere a Michele come racconterebbero oggi le signorine buonasera il periodo che stiamo vivendo? Beh, credo che comunque lo racconterebbero come con grande professionalità, come hanno sempre fatto, perché ricordiamoci che le signorine buonasera non solo annunciavano i programmi della giornata, della serata, eccetera, però davano notizie anche di stretta attualità, come, non so, vi faccio un esempio, la caduta delle Torri Gemelle, l'assassinio di Kennedy, la morte di Lady Diana. Un attimo prima dei telegiornali, certo, davano la notizia in maniera molto ridotta per poi passare, diciamo, all'approfondimento i telegiornali. Quindi credo darebbero comunque sempre con estrema professionalità, ma magari con estrema dolcezza, tutto ciò che accade di brutto, ahimè, e ma anche di bello, durante questo periodo che stiamo affrontando. E poi sono assolutamente d'accordo. Vero, Marta, e poi con grande eleganza, e devo dire sicuramente Nicoletta Orsomando togliendo e mettendo gli occhiali, che è un gesto. Era un suo vezzo veramente apprezzato da tutti. Però devo dire che avendo intervistate un po' tutte, credetemi, hanno tutte ancora una gran voglia di fare, di vivere, di imparare cose nuove. Dalle interviste poi proprio ho scoperto anche queste loro doti. E poi hanno tutti dei curriculum veramente molto nutriti, tutte hanno fatto veramente tante tante cose, non si sono limitate agli annunci, ma hanno, non so, c'è chi ha fatto delle comparse nei film, c'è chi ha condotto programmi di libri, c'è chi ha condotto programmi musicali, tutte donne con tante passioni, quindi veramente lodevoli. Allora, io ho già detto Nicoletta Orsomando, e quando vado dal parrucchiere a farmi fare una pettinatura un po' così, io gli chiedo sempre: fammi un Orsomando. Ormai ha capito com'è. Professore, chi era la tua preferita? Ma credo che anch'io mi associo all'Orsomando. Sono dello stesso partito. Sì, sì, no, nel senso che poi da piccola mi piaceva Maria Giovanna Elmi, però con l'età, dico, l'eleganza di Nicoletta Orsomando. Sì. Allora, fatemi ricordare Le signorine, buonasera, di Michele Vanossi, edito da Gribaudo, il racconto di un mito tutto italiano dagli anni 50 ad oggi. Grazie Michele, alla prossima occasione, a presto. Grazie a voi, arrivederci, buona grazie. Serata. Allora, io non ho l'eleganza delle signorine, buonasera. Lancio gli autogol e la viabilità e ci ritroviamo tra poco. Oggi, smart working. Ti sto mandando un file via mail, dovrebbe esserti arrivato. Sì, lo vedo. Anni 90. Ti sto mandando un file che avevo sul floppy. Tra quanto arriva? Ma, solito, un'oretta. Adesso metto giù, così almeno libero la linea per la connessione. Connetti. YouTube Social Network. Eccoci, ancora siamo per l'ultimo spicchietto del nostro RadioTube. Mi sto rimettendo gli occhiali tipo Orsomando, anch'io li metto e li tolgo, poi ho gli occhialoni. Sì, sì, mi sono messa proprio nella parte. Non mi vedete perché sono alla radio e mi sono messa nella parte. No, però vi devo raccontare una cosa. Io da piccola ero molto colpita da questo gesto di Nicoletta Orsomando, che si toglieva e metteva gli occhiali. Allora io ho chiesto una volta a mia nonna: ma nonna, ma perché si toglie gli occhiali? E mia nonna, da cinica brianzola, rispose: perché vuole far vedere che ha dei bellissimi anelli. Io questa cosa l'ho sempre adorata, bellissima. Allora, professor Fontana, ti leggo un altro messaggio che è arrivato da Anna Maria. Vai. In sintesi, vai. Noi qui empatici, buoni, eleganti, progressisti, ispirati, abbiamo pure gli occhi azzurri. Voi cattivi, brutti, anche un tantinello sporchi, si intende, cara Marta, che io sto con voi, come no. Allora, no, io non ho gli occhi azzurri, sono liberale, sono anche un po' cattiva e talvolta un po' stronza. Però diciamo, Anna Maria, non so cosa ne pensi, professore, forse ci proviamo a essere un po' più aperti, un po', cioè perlomeno cominciamo a riconoscere la necessità di esserlo. Poi, tra il dire e il fare, insomma, è più difficile. Cosa ne pensi, professore? Ma sì, credo anche che quello di cui abbiamo parlato questa sera abbia messo in evidenza come nessuno si sente necessariamente, o almeno spero di averlo messo in evidenza, bello, biondo, con gli occhi azzurri e felice. Anzi, il tema non è tanto quello, il tema credo sia proprio incominciare a essere critici della realtà che ci circonda, critici anche di alcune scelte che non necessariamente sono perfette, e però riuscire a sviluppare quell'empatia ci aiuta a non andare a sbattere contro un muro, perché già dobbiamo gestire una serie di problemi molto complicati nella nostra realtà. Se in più diventiamo estremi e radicali, forse non facciamo un gesto perfettamente intelligente, ecco. Ecco, cominciamo col provarci, ecco, insomma. Allora, andiamo un po' in tema natalizio, così un po' di afflato, un po' di sentimento. Roberta, eccolo qua. Una cosa dietro il vetro che non capisco se Alessandro Schirano sta facendo twerking o cosa. Stanno ballando dietro al vetro Alessandro, Andrea Recobella, Roberta Frisani. Questa ovviamente Mariah Carey con Ariana Grande e Jennifer Hudson, quindi veramente delle cose che vestite come elfi strizzati in abiti succintissimi, però sempre con giudizio. Questo è il video musicale di Oh Santa, che è il nuovo singolo tratto dalla colonna sonora dello spettacolo Mariah Carey's Magical Christmas Special, che è stato pubblicato venerdì 4 dicembre, cioè ieri, in esclusiva su Apple TV Plus. un tripudio di Natale, proprio Natale all'ennesima potenza. Difficile comunicare il Natale quest'anno, professore, una sfida, eh? Una bella sfida, sì, però ti dico una cosa provocatoria, dai, così facciamo un po' arrabbiare i nostri ascoltatori. E se Mariah Carey e company fossero le signorine buonasera di oggi che ci presentano il Natale così? Non lo so, le vedo un po'. Intanto un po' scosciate. No, vedi, hai ragione, certo. Ma perché io sono rimasta un'idea un po' del Novecento, vedi? Cioè, mi sto ponendo io stessa dei limiti. Sbaglio invece. Hai ragione, professore. Le signorine buonasera di oggi. Con tutto questo armamentario natalizio. Insomma, so che quest'anno è davvero una sfida anche per i brand che tu conosci e frequenti molto bene per lavoro, molto difficile, eh? Assolutamente, soprattutto riuscire a fare quella connessione tra il racconto di marca e le vere esigenze di tutti noi che siamo in difficoltà, no? Più o meno, è la vera sfida. Con un tocco di ironia e di leggerezza, perché poi non dimentichiamoci che il Natale implica tutta una serie di sentimenti, e quindi sono molto impegnato anch'io in prima linea su cercare di aiutare le organizzazioni a fare questi passaggi. Eh sì, anno difficile, però appunto non è detto che ci riusciamo, ma ci impegniamo veramente con grande intensità e grande energia. Grazie per essere stato con noi ad Andrea Fontana, sociologo della comunicazione, professore di storytelling d'impresa all'Università degli Studi di Pavia e presidente di Story Factory. Grazie professore, alla prossima, grazie mille. Grazie a voi, buonasera. Grazie professore, grazie anche ad Alessandro Schirano in redazione e al Turking. Grazie a Roberta Frisani in regia e dava il tempo ad Alessandro Schirano. Noi ci risentiamo domattina dopo il giornale radio delle 7, perché domani mattina sarà con noi Massimo Ranieri. Un RadioTube l'intervista da non perdere. A domani, e poi ci risentiamo ovviamente nelle news nei prossimi giorni. A presto. Oggi il premio. Durante il lockdown non si potrà uscire di casa neanche per andare a trovare il proprio partner. Anni 90. Si potrà uscire di casa solo per i seguenti motivi: andare a trovare la fidanzata, trovare le fidanzate se sono di più, trovare l'amante, trovare le amanti o per fare l'amore. Queste sono le priorità. Il coronavirus non fermerà mai la nostra voglia di figli.